Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. E l'avete sentito nei GR, lo avete sentito ieri e c'è persino sui giornali di oggi. Insomma, il tema veramente che riguarda l'Europa, ma riguarda anche l'Italia, è l'intervista che Mario Draghi ha concesso a Handelsblatt, che è questo quotidiano tedesco abbastanza simile a Financial Times e al Sole 24 Ore, cioè un quotidiano economico, politico e finanziario. È sicuramente una voce importante per la Germania, ma anche per l'Europa, e non a caso appunto questa intervista rilasciata da Mario Draghi è stata ripresa in tutti i modi possibili e immaginabili. Mario Draghi ha parlato sia delle sue strategie per come governatore della Banca Centrale Europea, un posto che intende ricoprire fino alla fine del suo mandato, cioè al 2019, e poi naturalmente ha dovuto, probabilmente sollecitato dall'intervistatore, parlare anche di tutte queste voci che circolano sulla sua possibile candidatura a Presidente della Repubblica Italiana. E la cosa curiosa, secondo me, leggendo questa intervista, è capire quanto effettivamente Draghi piaccia ai tedeschi, e forse altrettanto curioso è che piace ai tedeschi, e molti tedeschi lo dicono, perché non sembra un italiano. Che cosa voglia dire esattamente questo non è chiaro, non è chiarissimo, però forse non dovrebbe inorgoglirci così tanto, che il motivo per il quale pare Draghi piaccia così tanto è perché non sembra italiano, mentre in realtà forse alcune delle sue caratteristiche sono molto più italiane di quanto il tedesco medio pensi, ma questo è un altro discorso. In ogni caso, quindi, l'intervista a Handelsblatt, che trovate anche online, però il sito di Handelsblatt è in realtà tutto in tedesco, quindi insomma bisogna sapere il tedesco. Passiamo a un altro quotidiano, questa volta al Times, quotidiano britannico. Qui si parla di Europa, ma nel senso che l'indiscrezione è che almeno 9 componenti del governo di David Cameron, che è un governo conservatore, chiedono al primo ministro, che è anche leader del suo partito, il partito appunto conservatore, di poter fare campagna in favore di un'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, nel caso non vadano a buon fine i negoziati sul rimpatrio dei poteri da Bruxelles. Lo sapete, ne abbiamo parlato spesso, è una questione che va avanti da parecchio tempo, c'è un movimento molto forte anti-europeista in Gran Bretagna, non è un caso anche che ci sia stato quel referendum che poi non è stato vinto dagli indipendentisti, però della Scozia, che addirittura voleva staccarsi dalla Gran Bretagna, e alcune delle motivazioni erano: noi non vogliamo far parte dell'Unione Europea, quindi se non faremo parte del Regno Unito, a maggior ragione non faremo parte dell'Unione Europea. Comunque il Times il 30 dicembre ha spiegato che c'è questa tensione proprio all'interno del partito e all'interno del governo. Uno di questi ministri, diciamo dissenzienti, avrebbe addirittura detto al Times che c'è proprio un malcontento molto diffuso e non piace l'idea di questo referendum che Cameron ha promesso entro il 2017, cioè mancano 2 anni, in cui si chiederà appunto ai cittadini britannici se vogliono stare dentro o fuori dall'Unione Europea. Passiamo alla Grecia, l'altro grande tema europeo di questi giorni. Sapete, lunedì scorso c'è stato l'ultimo voto utile per eleggere un presidente, non si è arrivati all'elezione, non si è raggiunta la maggioranza necessaria, e quindi a questo punto si va a elezioni anticipate, elezioni che molti temono perché ci sarà quasi sicuramente un'affermazione del partito Syriza di Tsipras, che è un partito fortemente anti-europeista, anche se nelle dichiarazioni di questa settimana il leader Tsipras appunto ha detto: io non ho intenzione di uscire dall'euro, vorrei soltanto rinegoziare, come stanno cercando di fare altri paesi, alcune delle regole che Bruxelles ci ha imposto. Quindi il quotidiano To Ethnos greco pubblica questo articolo che si intitola Ad armi nascoste, e in questo caso, come potete immaginare, non l'ho letto in greco, ma l'ho letto tradotto sul sito di presseurope.eu. sapete, il sito a me è molto caro, che fa questo servizio di monitoraggio e traduzione degli articoli più importanti della stampa europea su questioni europee. E allora si legge appunto in To Ethnos: la Grecia si avvia verso queste elezioni anticipate fissate per il 25 di questo mese, dopo che il Parlamento non è riuscito a eleggere il nuovo presidente. Il candidato del Premier Antonis Samaras, che era Stavros Dimas, ha ottenuto soltanto 168 voti e gliene servivano almeno 180. I sondaggi indicano che non c'è in questo momento un favorito perché il passaggio politico è abbastanza confuso. L'ex premier socialista Papandreou prepara un nuovo partito, il partito di sinistra Dimar è pronto a in qualche modo fare un'alleanza con Syriza, come appunto dicevamo il partito di Alexis Tsipras, e la strategia di Nuova Democrazia, che è il partito conservatore, invece consiste nel suggerire ai suoi elettori che hanno la scelta tra Samaras e Syriza di schierarsi appunto in un'eventuale alleanza, a patto che ci sia un piano chiaro sui rapporti con l'Unione Europea, cioè sostanzialmente che non ci sia l'annuncio di voler uscire dall'Unione Europea. Financial Times naturalmente si è occupato lungamente di questa questione delle elezioni anticipate in Grecia, anche perché lo ricorderete questa settimana le borse all'inizio hanno reagito molto male a questa notizia, soprattutto le borse di Italia e Spagna. E allora Financial Times scrive che questo nuovo corso che da molte parti viene invocato per Bruxelles e dalla Grecia, lo abbiamo appena detto, ma anche dall'Italia, anche dalla Francia, ecco, questo nuovo corso invocato appunto per esempio dal nostro premier Matteo Renzi riflette un sentimento diffuso e in parte anche giusto contro un'Europa troppo tecnocratica e centralizzata. Secondo il quotidiano britannico, nell'Eurozona quello che deve cambiare è il modo in cui i paesi sono trattati come bambini ribelli. Sapete un po' quello di cui è stata accusata spesso Angela Merkel, di trattare appunto noi italiani, ma i francesi, anche i portoghesi, gli spagnoli, i greci e in un passato non poi così lontano gli irlandesi. Quindi scrive Financial Times, quello che deve cambiare il modo in cui i paesi sono trattati come ribelli. La gente, non solo nei paesi periferici, ma anche appunto in Italia e Francia, che ricorda il quotidiano britannico, sono tra i cofondatori dell'Unione Europea, sono stanchi di ricevere lezioni. Il riferimento diretto è alla Germania, che tra l'altro sempre Financial Times questa settimana aveva ricordato è stata il maggior beneficiario di una cancellazione del debito con l'accordo post bellico di Londra del 1953, con cui gli obblighi di Berlino furono in pratica azzerati. Andiamo quindi un po' indietro nel tempo, ma forse è giusto ricordare tutto quello che è successo appunto durante la ricostruzione post seconda guerra mondiale, perché poi da lì con quegli eventi si possono spiegare tante cose, anche se vogliamo questo sentimento un po' duale che ha la Germania: da una parte vuole essere superpotenza, dall'altra è un po' come se avesse paura essa stessa di diventare troppo potente, perché la storia ci insegna che una Germania troppo potente è stata anche nel secolo scorso molto pericolosa. La Frankfurt Allgemeine Zeitung si è occupata invece di Vladimir Putin. E il suo editorialista, il direttore della FAZ, Bertolt Kohler, ha scritto questo articolo intitolato Il fascino del presidente russo sulle destre europee, il forte Vladimir. Il presidente russo, ha scritto Kohler, in un primo tempo ha ottenuto l'appoggio del popolo russo, mostrandogli di avere il potere, di raddrizzare un mondo scaraventato dell'instabilità. E il popolo, scrive sempre Kohler, spera che il mondo possa diventare com'è nei suoi sogni. Questo fascino però esercitato da Putin all'interno è stato esercitato secondo Kohler anche sulla Germania, sui tedeschi. Quindi questo desiderio di leadership politica e anche spirituale forte c'è anche in Germania. E a questo proposito, forse lo ricorderete, settimana scorsa abbiamo parlato dell'allarme che i quotidiani tedeschi hanno lanciato su Pegida, questo movimento fortemente antieuropeista, razzista, anti-immigrati, che sta crescendo in Germania. È nato a Dresda nello scorso ottobre e continua a crescere, continua a organizzare manifestazioni. Ne ha parlato anche la Merkel nel suo discorso di fine anno e Financial Times ha aperto con questa con il riferimento al discorso di Angela Merkel, una foto di Angela con una delle sue famose giacche, tutte uguali, sempre uguali da molti anni, e il titolo è appunto Merkel attacca quest'onda di populismo populismo europei, di populismo di destra europeo e tutti i pregiudizi che ne conseguono. Tra l'altro scrive Financial Times questo avvertimento lanciato dalla cancelliera nel suo discorso di fine anno, tutto sommato ha un eco anche nei discorsi che hanno fatto i presidenti di Francia e Italia, con gli accenni appunto all'antieuropeismo, ma soprattutto a questo anti-islamismo razzista e pericoloso. Vi segnalo, non citiamo quasi mai i quotidiani italiani, però se parlano di questioni europee lo fanno in modo originale, perché no? E allora vi segnalo un articolo apparso ieri sulla Stampa di Tonia Mastrobuoni, che è l'inviata a Berlino della Stampa, appunto, e che parla della Lituania, la Lituania che è entrata nell'euro con questo nuovo anno, e poi naturalmente le ripercussioni che questo potrebbe avere, per esempio, anche sulla partita del debito greco. Scrive Tonia Mastrobuoni: l'avvio della campagna elettorale greca è già caratterizzato da ricatti e bordate tali da far presagire che il duello tra i favoriti, il partito di sinistra radicale Syriza e i conservatori di Nea Democrazia, la formazione dell'attuale premier Samaras, sarà fino all'ultimo voto. Ma c'è appunto anche il tema di questa Europa così contestata, che però continua ad allargarsi. C'è la foto del premier della Lituania, Algirdas Butsevičius, in una foto in cui mostra una banconota da 10 euro, quelle nuove tra l'altro, che è un po' la foto simbolo di questo nuovo ingresso, di questo nuovo membro dell'Unione Europea. L'ultimissima segnalazione che vi faccio è ancora una volta dalla Stampa italiana, che non lo so, io sono solo contenta quando c'è una fiammata di interesse per i temi europei. Questa volta è Antonio Armellini che se ne occupa sul Corriere della Sera di qualche giorno fa, e il suo articolo si intitolava Il tabù dell'Europa a due velocità. C'è questa ventata di euroscetticismo che però ha avuto, secondo Armellini, il pregio di mostrare che il re è nudo, nel senso che è veramente ormai non più procrastinabile l'idea di definire percorsi differenziati per diversi paesi. Siamo veramente in tanti ormai, siamo in 29 di fatto, e quindi bisogna fare delle differenze. Abbiamo parlato prima di paesi fondatori, ci sono naturalmente, c'è il paese più forte oggettivamente dell'Unione Europea, che è la Germania, che deve forse anche un po' ridefinire i rapporti con gli altri paesi fondatori e quelli invece che sono entrati da poco, da pochissimo, o che entreranno. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, ci risentiamo tra un'oretta con i giornali italiani. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.